Dopo difendere la terra di mezzo, Woomin 4 torna ad occuparsi di Tolkien, in realtà non ha mai smesso, ma in ogni caso è uscito un libro che si intitola Il Fabbro di Oxford, edito da Eterea Edizioni, in cui vengono raccolti un po' i suoi scritti e i suoi interventi appunto sull'autore britannico. Noi siamo al telefono con Woomin 4 che saluto, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, appunto, tu hai raccolto un po' gli interventi e gli studi che stai continuando a fare su Tolkien. Sì, dopo Difendere la Terra di Mezzo, che ormai è un libro di qualche annetto fa, era del 2013, ho continuato a occuparmi di Tolkien e ho fatto svariate conferenze, interventi pubblici anche in contesti molto diversi uno dall'altro, perché alle volte mi è capitato di partecipare a convegni accademici e alle volte invece a festival letterari o del fumetto, insomma, a seconda delle occasioni. Ho anche prodotto quindi interventi di livello diverso, per un pubblico diverso e con taglio diverso. Non volevo quindi farne un saggio organico, diciamo, non si poteva farne un secondo saggio, si poteva fare però una specie di antologia, ecco. Trovando un filo conduttore che un po', insomma, viene descritto in qualche modo dal titolo, che è l'attività artigiana di Tolkien come scrittore, il gioco di parole ovviamente Fabbro di Oxford con Fabbro di Wootton Major, uno dei suoi racconti, trovando questo filo conduttore e appunto raccogliendo tutti questi scritti e interventi in un unico volume, che in questo caso è uscito per una piccola editrice nata da pochissimo. Certo, ecco, appunto, ritornando sulla questione del fabbro e dell'artigiano, appunto tu descrivi Tolkien come un artigiano proprio della narrativa, per anche tutto il lavoro di costruzione, di studio dei personaggi, che è un lavoro, non è semplicemente, come dire, dare sfogo alla fantasia, ma si basa su una ricerca anche molto lunga. Io ho avuto il presentimento che si è discusso sempre di Tolkien appunto o in termini di appartenenza di genere letterario, quindi fantasy come letteratura di serie B oppure no, la critica che l'ha recepito in un certo modo piuttosto che in un altro, oppure si è andata a cercare in Tolkien appunto delle radici religiose, teologiche oppure ideologiche, eccetera eccetera. Mi sembra che il lato che sia stato trascurato, ecco, nelle varie letture, anche quelle più pop, diciamo, che vengono date di questo autore, è quello letterario, cioè il suo lavoro proprio di scrittore, e volevo quindi in qualche modo esaltare questo aspetto qui, il tipo di lavoro che lui faceva nella costruzione dei suoi personaggi e delle sue storie, essendo lui un filologo e un insegnante di letteratura medievale. Lui poteva attingere a un patrimonio di fonti che però non ha riprodotto, ecco, tali e quali, non ha prodotto una letteratura mimetica, ma l'ha appunto adattate, plasmate, riforgiate per creare invece delle storie che parlano all'epoca contemporanea, a prescindere da quale sia la loro ambientazione. Ecco, mi interessava sottolineare questo aspetto. Ecco, oltre agli studi, diciamo, negli archivi, nelle biblioteche, quello che tu sostieni anche nella prefazione appunto del tuo libro è che Tolkien sia rimasto molto, sia figlio anche del suo tempo e delle esperienze che ha vissuto, in particolare con la Prima Guerra Mondiale, che tu scrivi è la prima guerra fordista che viene effettuata. Sì, ma questo ovviamente non sono certo io il primo a dirlo, ormai anche le biografie più recenti, da cui poi è stato tratto un film biografico che uscirà nelle sale italiane, presumo, settembre, sono molto orientate in questo senso, cioè a leggere la letteratura di Tolkien come una letteratura post-bellica, nel senso di appunto post-guerra mondiale. E lo stesso Tolkien lascia un indizio nella prefazione al Signore degli Anelli, che pure venne pubblicato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi molti lettori tendevano a vederci un'allegoria della Seconda Guerra Mondiale. Lui rifiutò questo tipo di letture dicendo: guardate che la mia generazione è stata molto più colpita dal 1914 che dal 1939, a segnalare appunto il fatto che la sua generazione si era forgiata in maniera anche estremamente traumatica in quel contesto. Un contesto in cui per la prima volta, in realtà non era la prima volta, tu lo collochi qualche secolo prima, la guerra, diciamo, ha portato a un livellamento di classe in cui anche, come dire, la borghesia incontrava le classi più umili e provava empatia per il loro destino, e quindi questo in un qualche modo ha condizionato anche Tolkien. Assolutamente, ed è lui stesso ad ammetterlo. Quando parla del suo personaggio, del Signore degli Anelli, il personaggio di Sam, lo hobbit di umili origini, quello più apparentemente più goffo, ecco, impacciato, che in realtà poi diventa il vero eroe della storia, quindi parte, diciamo, come personaggio secondario e piano piano guadagna il centro dell'avventura, parlando di lui ammette in una lettera che si era ispirato ai Tommies, ai soldati semplici appunto di estrazione proletaria che lui aveva conosciuto in trincea nella prima guerra mondiale, è ispirato, diciamo, alla loro tenacia, ecco, alla loro capacità di sostenere anche le difficoltà più grandi, con una grande testardaggine, una grande tenacia. Questa è una qualità che lui riconosce appunto ai suoi hobbit. Ecco, in un capitolo appunto del tuo libro tu entri sul tema dell'antimilitarismo di Tolkien, che è qualcosa di diverso dal pacifismo, però. Assolutamente sì. Innanzitutto Tolkien partì volontario per la prima guerra mondiale, anche se, come dire, all'epoca non è che ci fosse molta scelta. L'alternativa a non partire volontari era la stimata sociale, era essere bannati socialmente. In buona sostanza, soprattutto per chi frequentava le università, dove già si facevano i corsi per cadetti, diciamo. Quindi, però andò insomma, convinto che il Belgio e la Francia dovessero essere salvati, liberati dai prussiani. Ecco. In realtà, come tutta la sua generazione, poi venendo a contatto con l'orrore della guerra e della propaganda bellica, eccetera, si rese conto perfettamente di quale macchina da macello fosse quella guerra, e queste riflessioni profondamente antimilitariste lui le ha inserite anche nelle sue storie, ecco, a partire da quella più famosa, dal suo romanzo più famoso, che è sicuramente Il Signore degli Anelli, dove c'è assolutamente una critica di questo tipo, appunto, alla esaltazione dei valori bellicisti e guerrieri, quando non sono moderati, ecco, quando non sono sottoposti quantomeno a una critica, a un contenimento. Purtroppo, diciamo, questo forse è un aspetto che solo in tempi molto recenti è stato sottolineato ed esaltato quantomeno nel nostro paese, ecco. Se no forse, diciamo, anche l'immagine di Tolkien sarebbe stata un po' diversa nella cultura di massa. Sì, su questo ci vorrei arrivare, però rimango un attimo appunto sul tema dell'antimilitarismo. Tu scrivi, insomma, che per Tolkien comunque era un tema che presentava delle contraddizioni che ritroviamo anche in posizioni diverse di due suoi personaggi. Da un lato una posizione come quella di Faramir e dall'altra quella di Frodo, che sono abbastanza diverse, no? Come, però sempre, come dire, con un ripudio alla fine della guerra. Sì, o perlomeno con l'accettazione della guerra come necessità difensiva, ecco. Faramir forse fa una critica più intellettuale, Frodo fa una critica più morale, più etica, ma sicuramente il romanzo si conclude con un dibattito che avviene all'interno del fronte dei buoni, chiamiamoli così. I quali devono capire, devono decidere, insomma, come agire, perché è necessario agire per liberare la contea da chi l'ha usurpata, quindi bisogna ricorrere alla forza, non c'è possibilità, ecco, di una lotta non violenta, e in questo caso appunto è proprio Frodo che dice il minimo indispensabile di forza e cercando comunque di non togliere la vita a nessuno. E lo fa, insomma, è una posizione che prende anche con grande sofferenza, perché non vorrebbe in nessun modo torcere un capello a chi che sia, ma si rende anche conto questi lo fanno capire gli altri, insomma, che però quando è necessario bisogna anche essere pronti a impugnare la spada, insomma, per non essere uccisi quantomeno e riprendersi la propria libertà. Quindi c'è una riflessione, secondo me, assolutamente complessa, attuale, fatta appunto attraverso una riflessione etica, si capisce, che corona in qualche modo la storia, che è la storia di una guerra comunque, perché è la guerra dell'anello. Ecco, e tu accennavi prima, insomma, quella che è l'immagine, la considerazione e anche una disputa sulla figura di Tolkien, che almeno per quanto riguarda l'Italia, no, è stato considerato negli anni passati un reazionario, un conservatore, mentre tu lo delini più afferente a un anarchismo cristiano. Sì, beh, non in senso strettamente politico, è evidente. L'ho definito anche un demiurgo reazionario. Reazionario perché indubbiamente reagiva in maniera idiosincratica alle grandi trasformazioni della società industriale, in particolare della società contemporanea, perché era un cattolico tradizionalista senza ombra di dubbio. Tuttavia non era un conservatore, mi rendo conto che questo può sembrare contraddittorio, ma proprio il conservatorismo viene da lui stigmatizzato nella figura degli elfi, i suoi elfi che sono appunto gli imbalsamatori, come li definisce lui stesso, i conservatori attraverso i secoli e i millenni, ecco, di una realtà che originaria, che viene sempre rimpianta in qualche modo, c'è sempre uno sguardo rivolto all'indietro e non è un sentimento sano, ecco, è un sentimento vitale questo. Tolkien dice chiaramente a un certo punto: un credente deve accettare la storia è il dispiegarsi della provvidenza divina, rifiutarla è rifiutare la volontà di Dio, quindi appunto parte sicuramente da una posizione religiosa, ma appunto per affermare una critica in realtà al nostalgismo e al conservatorismo. E per questo, diciamo in una maniera anche un po' iperbolica, se vogliamo un po' così sarcastica, in una lettera si definisce un simpatizzante dell'anarchia, ovviamente specifica non nel senso di uomini barbuti che lanciano bombe, però nel senso appunto di una idiosincrasia per il potere statale, per il controllo burocratico, per tutto, diciamo, quell'apparato che lo Stato moderno, la modernità nel senso istituzionale e politico aveva portato nella storia, ma appunto senza mai il rimpianto per il passato. È una posizione complessa, mi rendo conto, ma per sua fortuna non faceva politica, faceva il romanziere e il professore di letteratura. Certo, queste ed altre chiavi di lettura sono contenute appunto nel Il Fabbro di Oxford, libro di Wuming 4, edito da Terra Edizione, e che presenterai domani pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli di Porta Ravegnana. Insieme a te ci sarà Roberto Arduini, che è il presidente dell'Associazione Studi Tolkieniani appunto in Italia. È una collaborazione che avete instaurato da tempo, no? Sì, abbiamo instaurata da tempo e insieme con anche altri abbiamo fondato appunto l'Associazione Italiana Studi Tolkieniani, che ha precisamente l'intento di fare uscire un po' gli studi tolkieniani e la passione per questo autore dagli ambiti più ristretti, ecco, che a volte tendono a essere anche un po' settari, e provare invece appunto a collegare questo autore, tutto l'immaginario che gli sta attorno, quindi anche il fenomeno culturale legato al suo mondo immaginario, un po' a tutto il resto, insomma ad altri autori, alla letteratura, alla dimensione dei giochi anche che è sconfinata, le arti visive, eccetera, eccetera. Un tentativo insomma di rendere trasversale questo autore e tutto l'immaginario, come dicevo, che è connesso alla sua opera. Tra l'altro domani sera verrà presentato anche un viaggio letterario proprio sui luoghi tolkieniani, che ti vedrà come guida, ci saranno dei seminari. Non so se vuoi accennare qualcosa adesso o lasciamo la sorpresa a domani. Dirò soltanto che l'idea è quella di lanciare un seminario itinerante e psicogeografico sui luoghi della vita o della formazione di Tolkien in Inghilterra, ma appunto ne parleremo meglio domani.